Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, sento dai rumori di fondo che tu sei in auto e proprio di auto parliamo. Eh sì, perché ci rendiamo conto purtroppo come le problematiche legate al mondo delle auto usate stanno diventando sempre più frequenti, ma soprattutto come anche i dati dei casi trattati dall'Adico rispetto al 2016 sono in notevole aumento, tant'è che rispetto ai circa 50 casi dell'anno precedente quest'anno ne abbiamo già trattati oltre circa una novantina. E per cui volevamo dare anche qualche indicazione e qualche consiglio su quelle che sono un po' le buone norme da seguire, soprattutto quando si acquista un'auto usata. Ecco, perché poi effettivamente uno dice, mannaggia, compro una macchina nuova, magari spendo 15.000 euro, il giorno dopo se vado a rivenderla ne vale già 2-3.000 di meno, no? E quindi uno dice, perché far tanta fatica? Ne compro già una usata, la pago molto meno e magari se è tenuta bene vado avanti un bel pezzo. Beh, certamente innanzitutto c'è da dire che è un po' complice anche la crisi, sicuramente le persone sono state indotte ad acquistare in maniera più ampia le auto usate rispetto alle auto nuove, perché comunque oggi comprare un'auto nuova significa comunque avere una condizione economica di un certo tipo, e quindi abbiamo notato come il fenomeno delle auto usate in quest'ultimo periodo si sta molto rivalutando, però è anche vero che a pari passo e parallelamente a questo si stanno rivalutando quelle che sono un po' le fregature legate sia a quando si acquista tramite internet, sia a quando si acquista tramite concessionario o tramite privati. Interessante questa distinzione. Facciamo che compriamo un'auto usata da un concessionario. Beh, allora io vorrei essere più sintetico spiegando un concetto importante, che se acquisti un'auto, a prescindere se tramite internet, concessionario o privato, è importante riuscire ad avere una descrizione più ampia e dettagliata possibile sulle condizioni dell'auto, perché questo diventa praticamente una sorta di certificato che alla fine può avere un duplice significato, sia in termini di garanzia sia in termini di truffa, qualora rimaniamo coinvolti in qualche malaffare. Pensiamo ad esempio, se io dichiaro di vendere un'auto con auto condizioni paragonabili e nuovo, sempre taglia andata, pochi chilometri, unico proprietario, perfetta su tutto, e dopo scopriamo, come nella maggior parte dei casi che trattiamo noi in Adico, che l'auto non ha i chilometri dichiarati, che magari ha più di un proprietario, e la catena di distribuzione o il cambio automatico ci lascia in braghe di tela, eccetera, certamente le dichiarazioni o il certificato che possiamo definire di conformità rispetto a quanto descritto diventa comunque un documento che ci può aiutare a salvaguardarci appunto in presenza di queste situazioni. Ecco, io facevo i riferimenti se compriamo un'auto da un concessionario perché in qualche modo il concessionario è costretto a dare una garanzia. Beh, quando si compra un'auto usata, il concessionario è obbligato a dare una garanzia che deve essere non meno di 12 mesi, quindi qua c'è una certa sicurezza che qualora si presentano dei difetti comunque il concessionario ne deve rispondere. Invece da privato purtroppo non c'è una garanzia, ma ci deve essere comunque una correttezza, come abbiamo detto noi, che deve essere riportata sul certificato di conformità, perché comunque significa che da privato non possa essere soggetto a un reato di truffa qualora ho venduto qualcosa truffando la persona che ha acquistato. Come detto, se io compro un'auto che dichiaro che ha pochissimi chilometri e poi mi certificano che ne ha 300.000, chiaramente io ho truffato con una falsa dichiarazione e con maniera vessatoria una persona, e quindi potrei anche assumere responsabilità. Quindi una buona garanzia, ma posso beccarmi una denuncia. Sì, e invece se compriamo una macchina attraverso internet, ci sono proprio dei siti che vendono apposta macchine usate. Su internet abbiamo avuto moltissime segnalazioni e anche qui di persone che hanno acquistato e poi non gli è arrivato nulla. Magari quelle che sono le buone norme, tipo farsi rilasciare una polizza di rescissione, oppure cercare di essere cauti, di navigare su siti sicuri rispetto ad altri, certamente quando compriamo qualcosa che si vede le immagini di internet, sicuramente siamo maggiormente esposti a delle truffe. Il consiglio è quello di evitare di dare somme anticipate fino alla consegna dell'autovettura, che deve essere comunque davanti un'agenzia di pratica automobilistica, e di fidare da quelli che cercano di concludere l'affare al pomeriggio, soprattutto di venerdì, perché abbiamo avuto casi di persone che si sono presentati con assegni falsi e dopo, una volta sottoscritto l'atto, se ne sono andati con l'auto e il consumatore ha scoperto da venerdì pomeriggio a lunedì mattina che l'assegno non esisteva neanche, era un falso, ma l'auto ormai è già svanita nel nulla. Quindi ci vuole molta, molta attenzione e soprattutto molte prudenze, soprattutto perché su queste cose purtroppo la truffa è sempre in agguato. Certo, la prudenza deve essere sia che noi compriamo un'auto usata, sia che andiamo a cercare di vendere la nostra, perché le fregature ci possono essere da entrambi le parti, per chi compra e per chi vende. Cioè, le fregature sicuramente sono entrambe le parti. Ricordiamoci semplicemente che il consiglio migliore è quello di comportarsi onestamente. Non si può pensare di vendere una vettura di 10 anni dichiarandola paragonabile al nuovo, o non si può neanche dichiarare un'autovettura che ha 20.000 km e magari la persona che la utilizzava precedentemente era un tassista. Quindi situazioni che poi si possono anche ovviare, magari con un po' di scrupolo, soprattutto magari facendogli una perizia, oppure andando con qualcuno che si intende, ma a volte vale la pena anche spendere, dico, una stupidaggine, 30 euro, 40 euro da meccanico per farla visionare, piuttosto che spendere 7-8 mila e dopo spendere altrettanti per sistemarla, e ci troviamo comunque in una situazione che l'auto poi non è mai affidabile. Ecco, questo è un bel consiglio, prendere, dire ok, ci troviamo dal mio meccanico di fiducia, gli dà una controllata e poi ne parliamo sul prezzo. Bella cosa, grazie quindi a questi importanti accorgimenti che ognuno di noi deve avere, grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, ci ritroviamo tra qualche giorno con un nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.